Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold. I got faith in you, baby. I got faith. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E buongiorno da Carlo Gabardini. E allora vi aspettiamo all'800 24 0024 per stare insieme fino alle 9 con Si può fare, con Si può fare. Naturalmente, come tutti i sabati e domeniche, si vince qualche cosa. I biglietti della mostra di Klimt al MUDEC di Milano per chi ci chiamerà per darci una buona ragione per andare al museo, perché ieri e oggi sono le due giornate del patrimonio in Europa, le giornate del patrimonio. C'è una statistica Eurostat che è un po' cioè, nel senso, non ci fa fare bellissima figura proprio, no, noi direi italiani, per niente. Perché gli europei vanno in media il 43% almeno una volta all'anno al museo, quindi circa metà degli europei intervistati. Gli italiani solo uno su quattro. Noi che abbiamo il solito super patrimonio, super musei, eccetera. Perché uno al solito dice: vabbè, magari ci sono dei musei brutti. Invece non è possibile, stiamo parlando di Italia, anche se giustamente molti si lamentano del fatto che i musei da noi sono organizzati peggio e meno accessibili da un certo punto allora, di vista. Allora, dateci una buona ragione per convincere gli altri tre italiani su quattro che non vanno al museo nemmeno una volta all'anno. 800 24 00 24. Le vostre buone ragioni per andare al museo. Se poi qualcuno ci chiama anche e ci spiega come mai lui invece fa parte dei tre che non va nei musei, noi comunque lo ascoltiamo molto volentieri e capiamo come mai gli italiani vanno meno al museo di tutti gli altri europei. Parleremo anche della settimana della moda, perché c'è perché la settimana sta finalmente della moda. Finendo, volevi dire, cioè, che è quello siamo, che si dice a Milano, perché insomma, con tutti i problemi che ha creato a livello di traffico, auto in doppia fila, traffico impazzito. Ma noi non ci occupiamo di questo, ci occupiamo dello spreco, perché secondo Greenpeace c'è un importante rapporto, c'è troppo spreco, vestiti neanche utilizzati, buttati via, capi super costosissimi che però poi vengono usati per le sfilate e non è possibile che ci sia tutto questo spreco. Allora noi vi chiediamo, cari ascoltatori, se è vero, insomma, voi che è la vostra puntata, voi che lavorate in un negozio di abbigliamento, che lavorate in una maison di alta moda o anche semplicemente in una sartoria, in una fabbrica tessile, se è vero che nel settore della moda è uno dei settori con più spreco in assoluto, che non va bene lo spreco, lo sappiamo, cosa si può fare. Allora vi vogliamo nominare controllori dei fatti. Voi che conoscete questa realtà perché ci siete immersi, cominciate subito a chiamare. La notizia la approfondiremo nella seconda ora, però intanto 800 24 non sprecate 00 tempo 24, direi. Esatto. Titoli dei giornali di oggi. Allora, tutti si concentrano sulla vicenda delle primarie del Movimento 5 Stelle, che oggi incoronerà Gigino Di Maio. Non si sa quanti hanno votato, 80, 60, 70 mila, non si capisce, non si sanno ancora le cifre, però insomma Di Maio ha coronato il suo sogno, ha vinto le primarie con i punti dell'S lunga, insomma, che lui vincerà ormai si sa, anche perché appunto contro aveva i cosiddetti sette nani, piuttosto sconosciuti. E comunque sì, bene o male tutti i giornali aprono su Grillo, passo indietro e stop a Fico, e sulla questione di Fico che non ha potuto parlare alla kermesse di Rimini. E c'è lo stesso Grillo che, perché ieri sentivo che in televisione tutti dicevano: ah, non so come mai, però ho letto una dichiarazione di Grillo che dice: la scelta è stata mia. Leggiamo: Grillo fa il passo, tocca ai giovani, scrive il Corriere della Sera. Io sarò un papà, e questo è un virgolettato. Poi c'è Repubblica, lite con Grillo, quindi si sottolinea l'aspetto di scontro, lite con Grillo, Fico escluso dal palco del Movimento 5 Stelle, che appunto celebra questa giornata a Rimini, anche se non è escluso che Fico poi parli da quello stesso palco. Altri titoli sulla vicenda? Il giornale dice: sorpresa, Grillo va giù. Oggi la festa 5 Stelle, fiducia al 16%, scoppia il caso Fico e il leader si fa da parte. Libero scrive: Di Maio è il migliore, figuratevi gli altri. Questa potrebbe quasi essere un super titolo, ma il super titolo è un altro. Oggi le coliche, scrive il manifesto. Perché in effetti ci sono questi mal di pancia interne, quindi la foto di Fico, Grillo e Di Maio, oggi le coliche, oggi le comiche, oggi le coliche. E funziona bene. Invece sì. Direi l'unico giornale che non parla in prima pagina e non apre sui 5 Stelle è La Stampa, che apre con: gli ospedali italiani soffocati dai debiti, servono 1,5 miliardi. La consueta inchiesta della Stampa nel fine settimana, che giustamente meritoriamente approfondisce, esatto, le notizie, anche esatto, se non sono in questo caso buone notizie, però La Stampa si occupa comunque di Grillo e Movimento 5 certo. Stelle, il Movimento 5 Stelle in corona Di Maio, ma sul palco non c'è Fico, e così via andare un po'. E Beppe Grillo, che è un po' molto da uomo di Stato addirittura, dice: sarò il papà di tutti. Esatto, questo lo scrive il Corriere. Altri titoli sono per esempio su Theresa May che molto ha scelto Firenze per fare questo annuncio, che poi insomma è un annuncio, in realtà non è uscito granché da questo discorso. La Brexit si allontana, rinvio al 2021 a Firenze, la foto di Theresa May campeggia su tutti i giornali, c'è anche chi l'ha intervista, per esempio Repubblica, italiani non vi tradiremo, cos'altro ancora? Anche il Corriere dice: italiani non vi tradiremo, dove addirittura pubblica in prima pagina e poi va avanti a pagina 8 e 9 un pezzo firmato da Theresa May, dove appunto dice: non vi tradiremo. Poi all'interno spiega molte cose, del tipo: la decisione di lasciare l'Unione Europea è stata una dichiarazione su come vogliamo che funzioni la nostra democrazia, far parte della famiglia delle nazioni europee, quindi non si capisce. Però dice: la vita per noi sarà ovviamente diversa. Insomma, diciamo un colpo al cerchio, un colpo alla botte, perché continua dicendo: tuttavia sarà nostro compito creare una nuova struttura che consenta uno stretto rapporto economico. Quindi loro dicono: noi siamo fuori, però vogliamo continuare a fare gli affari con voi. Allora sentiamo, invece questa volta siamo andati a Napoli con Laura Viggiano a capire che cosa si aspettano di trovare, che cosa vorrebbero trovare sui giornali di oggi i lettori napoletani. Ciao Alessio, ciao Carlo, andiamo a chiedere ai napoletani che cosa vorrebbero leggere sui giornali di sabato. Ma una bella notizia, che è un po' di tempo che non ne abbiamo proprio di belle notizie. Cultura che potrebbe interessare sicuramente di più i giovani, qualcosa meno politica sicuramente. Vorrei leggere un giornale decente. Che giornali utilizza in genere? Quotidiani, locali, nazionali? Sì, preferisco andare in rete, leggere internazionale, a volte leggere i giornali stranieri, per esempio i giornali stranieri hanno anche un'attenzione alla politica internazionale che quelli italiani non hanno. Io posso dire cosa non vorrei più leggere: questi giornali che ricalcano quest'area razzista e xenofoba e questa guerra da poveri che in questo paese circola in questo periodo storico. La vittoria del Napoli innanzitutto, e poi che il comune risolvi un po' le sue sorti. Quali sono le notizie che la preoccupano di più? L'economia del paese, qualche guerra imminente, Trump, la Corea, no? Sì. Il sabato mattina vorrei trovare un posto di lavoro per i disoccupati napoletani. Quindi lavoro principalmente. Chi è più informato di casa? Lei generalmente come si informa? Io mi informo dal mio amico qui presente, Peppino. E chi è Peppino? Peppino è questo, il mio amico. Buongiorno, ditemi. Lei cosa vorrebbe leggere sui giornali il sabato? Ma glielo chiedo. Signorina, lei e io? Ah no, lei tu. Ma il sabato io non leggo giornali. Web, la cronaca. Come mi informo? Che guardando un po' con la televisione, come guardando che sento parlare. Quali notizie le interesserebbero? Che lo Stato si mettesse con la capa a far bene, aiutasse proprio gli imprenditori agricoli. Allora, notizie di annunci di lavoro a Napoli ne abbiamo? No, ci vorrebbe la cronaca locale napoletana. La risposta però, migliore comunque è: mi informo dal mio amico qui presente. Ha detto, esatto. Lui si informa, poi le decisioni però le prendo io. Allora abbiamo buone notizie. E qui state tranquilli, cari ascoltatori, perché ci siamo noi. Ci siamo noi di Si Può Fare il sabato e la domenica. E le notizie buone ve le diamo noi. Tra poco cominciamo a cercarle, a spulciarle, con l'anternino, esatto. Perché nella rassegna stampa ce ne sono poche. Poi c'è uno che voleva notizie di cultura. Beh, noi ne parleremo perché con la giornata europea del patrimonio, l'abbiamo detto, del patrimonio monumentale, museale, allora vi chiediamo all'800 24 00 24 proprio di raccontarci i vostri buoni motivi per andare al museo. Cari ascoltatori, vogliamo motivatori questa mattina, e si vincono i biglietti per la mostra di Klimt al MUDEC. Poi c'è chi vuole politica internazionale, sento i napoletani, vogliono le notizie, cioè lo sguardo internazionale. E in effetti il loro giornale, il Sole 24 Ore di oggi, ha una bella pagina, fra l'altro con tanto di foto a centro pagina, in prima pagina. Poi la seconda pagina è i rischi globali, geopolitica ed economia, analisi sulle varie crisi, dalla Brexit alla Catalogna, alla Corea del Nord, l'Iran, con tanto di editoriali di quattro giornalisti importanti. Quindi vedi, non proprio buone notizie, diciamo, tra Catalogna, già capirci qualcosa in tutte queste crisi. La buona notizia è che forse alla fine dell'articolo riesce a capire qualche cosa, questo è giusto. Poi sulla vittoria del Napoli non possiamo far niente, domani forse, perché Napoli gioca oggi, vedremo se vincerà. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 7:48 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Allora, ai lettori e ai cittadini napoletani che al microfono di Laura Viggiano chiedevano notizie sul lavoro, ce n'è una che non so se giudicarla una buona o una cattiva notizia, direi più buona, ma ci sono anche delle contrarietà. Scrive La Stampa: più tasse sul lavoro precario per favorire le assunzioni stabili. Letta così sembra più negativa, se io però dico meno tasse sul lavoro a tempo indeterminato sembra più positiva, perché l'intento è proprio quello di incentivare il lavoro a tempo indeterminato, e allo studio da parte del governo una ipotesi di questo tipo. Poi, che altro ancora? Ma io ho una notiziola, in realtà, che mi ha fatto sorridere. Il vincitore di 77 milioni al Super Enalotto, che vinse quest'estate, gli ha in realtà ritirati l'altro ieri questi soldi, dicendo che aveva altro da fare. E l'ho trovata una bella notizia. Cosa da fare che non ritirare svariati milioni di euro? Esatto. Però, vedi, ci sono persone che hanno altre priorità nella vita che il denaro. Esattamente, esattamente. E anche questi che hanno ricevuto la richiesta del vincitore hanno detto di lui anche che lui ha detto: no, penso che andrò semplicemente a farmi un weekend. Ecco, se hai 77 milioni, se il tuo progetto è solamente di fare un weekend, secondo me io sono felice che abbia vinto lui. Weekend lungo. Allora, una piccola buona notizia è questa: Milano, bike sharing, strade al bike sharing, scrive il Corriere della Sera, lanciata la sfida A3, perché arriva anche il terzo operatore, che si chiama Ofo, che correrà al pari con l'avversario Mobike. Parliamo delle biciclette cosiddette free floating, cioè quelle che non devi neanche riportare nello stallo, che puoi lasciare, ma le lasci dove ti pare. Poi tu esci di casa, guardi con l'app dov'è la bicicletta, se ce n'è una vicino a casa tua, la prendi, paghi il chip e poi la rimolli dove ti pare. Terzo operatore di free floating bike sharing, tutti i termini inglesi, ma mi sembra una buona notizia questa, molto buona. A Milano, ma non solo, perché questa è un movimento ciclistico ormai nazionale, però a Milano devo dire che noi siamo fortunati di vivere in questa Direi buona notizia per tutti, meno che per gli altri due operatori. Poi c'è un'altra piccola notizia che non so se è una buona o una cattiva notizia, che riguarda anche qui le tasse, riguarda Airbnb, la piattaforma che offre affitti di case private a chi è intenzionato a godersi un soggiorno nella città. Airbnb fa ricorso al TAR, anche qua, perché il TAR ovviamente non si nega, un TAR non si nega a nessuno, no, praticamente che succede? Tassa sugli affitti, Airbnb fa ricorso e contro la norma che è stata approvata, che prevede che gli intermediari degli affitti turistici, cioè Airbnb, raccolgano le imposte dovute dai proprietari, il 21%, e le trasmettono al fisco. Cioè praticamente si chiedeva a Airbnb di fare un po' da riscossore delle tasse. E Airbnb dice no, non ci sto. E vabbè, questo insomma è una buona notizia finché si continua frontiera a parlare, esatto, di far pagare le tasse a questi colossi di un'economia nuova e diversa che si svolge quasi tutta online. Però siccome siamo completi, abbiamo anche una notizia non bella, notizia da urlo. Ragazzi, perché è questo? Allora, lo scrive Il Fatto Quotidiano. L'Italia rinuncia a una legge per limitare i veleni del PFAS. Questa cosa che preoccupa molto in Veneto, certo. Stati Uniti, Germania, Zaia, Svezia hanno già fissato i limiti, che sono molto severi: 100 nanogrammi per litro d'acqua in Germania, 90 la Svezia, 70 gli Stati Uniti, e in Italia il limite quant'è? 1030, cioè 10 volte tanto, perché non c'è sostanzialmente una legge. Siamo fermi a un vecchio parere dell'Istituto Superiore di Sanità. Facciamola una legge su PFAS, che è questo prodotto che serve per impermeabilizzare, esatto, eccetera eccetera, prodotto da questa Miteni, azienda un po' misteriosa, proprietaria ne è una multinazionale che ha sede in Lussemburgo, la ICIG, ed è una vicenda tutta da chiarire, tutta da chiarire. Allora, però, siccome noi siamo Si Può Fare e dobbiamo per forza farvi trovare dei motivi per sorridere, abbiamo la nostra rubrica con l'Associazione dei Comuni Virtuosi, la rubrica Comuni Ribelli, la rivolta delle belle idee. Sentiamo questa volta Marco Boschini, dove ci porta? Ciao Carlo, il comune ribelle che ho scelto per questa settimana è a Pignano, in provincia di Macerata, un paese di 4.000 abitanti amministrato dalla giunta del sindaco Osvaldo Messi. Qui l'amministrazione comunale si è inventata un progetto per fare in modo che i piccoli esercizi commerciali del paese, che faticano a leggere un po' in tutti i comuni la concorrenza dei centri commerciali, di rimanere aperti. Facendo cosa? Mettendo insieme tutte queste esperienze in un unico portale, in un sito istituzionale del comune, per dare loro visibilità, quindi riunirle e dare la possibilità ai cittadini residenti, ma anche a quelli dei paesi intorno, di poterli visualizzare e magari venire poi a fare la spesa. In questo modo si supera un problema e lo si trasforma in un'opportunità. Quante belle cose ci arrivano dall'Associazione dei Comuni Virtuosi di Marco Boschini. Cari ascoltatori, però vi chiediamo una buona ragione, la vostra buona ragione per convincere i 3 italiani su 4 che non vanno al museo nemmeno una volta all'anno, all'800 24 00 24, la telefonata più divertente vince i biglietti, niente nemmeno a farla apposta, delle mostra di Klimt al MUDEC di Milano. Aggiungo una notizia che non so se sia una buona notizia o meno, però ne parlano tutti i giornali: Baglioni sarà il conduttore del Festival di Sanremo. 3, 2, 1, via, scattano le polemiche sul compenso e ci arriveranno. Lorenzo da Salerno, vai. Lorenzo? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Noi non andiamo al museo, io sono uno di quelli che fa poco. Male, molto male, Lorenzo. Cioè, chiamava per autodenunciarsi. Esatto, noi oggi vogliamo il contrario, vogliamo buone ragioni per andare al museo. Qual è invece la tua non buona ragione per non andarci? Ce l'hai una sì, giustificazione? È ottima, perché qui c'è una gran bella giornata di sopra. Io vado in campagna. Va in campagna. Mettermi in un posto al chiuso, in effetti. Due, sì. Poi sono anche tenuto un po'. Ma... Sì, sì. Lorenzo, però forza, su col morale. In campagna ci vuole energia, dovete essere felici voi che andate all'aria aperta, al sole in campagna a Salerno. Sì, oggi in campagna, domani al museo. No, si può fare anche così. 800 anche perché 24... a volte magari pioverà. Esatto. Esistono anche musei all'aperto. Torniamo dopo il GR. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 8:19 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, intanto c'è anche il sole a Milano in Viale Monterosa. Giusto Carlo, giusto, Milano Monterosa oggi va bene. Da quando c'è la rassegna stampa stiamo un po' trascurando il meteo. Il meteo è positivo e questa è una buona notizia, però non può essere una buona notizia, come ci ha detto prima l'ascoltatore di Salerno, per non andare al museo, perché secondo una statistica europea noi italiani andiamo al museo solo 1 su 4 una volta all'anno. Almeno contro il 43% dei nostri concittadini europei. Com'è possibile? Però era un'interessante interpretazione, era per dire: noi, oltre ad avere i musei e il patrimonio culturale maggiore di tutti gli altri, abbiamo anche un clima migliore, quindi è per quello che non andiamo al museo. Cioè, era un tentativo. Era un po' un modo per arrampicarsi sugli specchi. Noi oggi vi chiediamo, cari ascoltatori, la vostra buona ragione per andare al museo. Vi vogliamo motivatori degli altri 3 concittadini su 4 che non vanno neanche una volta all'anno al museo. La telefonata più divertente, più convincente, si porta a casa i biglietti della mostra di Klimt al MUDEC di Milano. E quindi andrà al museo, è perfetto. Esatto. Insomma. 800 24 00 24. Però vi chiediamo anche di essere controllori dei fatti per noi. Quali sono i fatti? I fatti sono che secondo Greenpeace nella settimana della moda c'è troppo spreco nel mondo generale, del fashion, nella moda, si buttano via troppe cose, capi di abbigliamento che hanno un ciclo di vita troppo corto. E allora, voi che lavorate in un negozio di abbigliamento o in una maison di alta moda o anche in una sartoria, chiamateci e raccontateci, illuminateci la verità dal vostro punto di vista. 800 24 00 24. O anche voi semplicemente che usate dei vestiti. Cioè tutti, quindi tutti. Esattamente. È un modo per dire che possono chiamare tutti. Intanto due notizie. Una notizia curiosa di questa settimana mi ha colpito, perché io ce l'ho un po' su, devo dire, con questa cosa delle chef stellati, della cucina super chef, eccetera eccetera. Guardo Master, devono essere chef stati anch'io. Anni terribili questi, sì, esatto. Sono estasiato, non si parla anch'io d'altro. Quando vedo piatti bellissimi in televisione, ma quando vado al ristorante mi piace mangiare bene e tutte quelle menate lì mi nervosiscono. Ho trovato i giornali che hanno dato questa notizia. Evidentemente questo chef Sébastien Brat, francese, 3 stelle Michelin, la pensa anche lui un po' così. Ha detto: basta, toglietemi le 3 stelle, rinuncio, voglio cucinare in serenità, senza l'ansia, lo stress di dover fare tutti i piatti perfetti all'occhio, devono essere meravigliosi, sennò perdo le 3 stelle. C'è addirittura uno chef francese che si è suicidato dopo aver perso una stella, se non ricordo male. Perché le aveva le stelle ed era troppo stressante. Però ti vorrei solamente allertare, sì, che questo chef ha fatto, sì, questo video in cui in realtà dice che lui vuole andare all'essenziale. Quindi ho la netta sensazione che poi uscirà con dei piatti che ti nervosiranno ancora di più di quando si occupava perché questa questione dell'essenziale è, secondo me, rischia che ti arriva al piatto senza su niente dopo 2 o 3 anni che ci pensa moltissimo. Riduci. Essenziale, tu vedi, esatto, un piatto bianco e dici: qua c'è l'essenziale, c'è l'idea l'essenziale stessa del cibo. Ma però anch'io... scusa, l'idea di andare a mangiare in un ristorante e ti servono un piatto cucinato da qualcuno che è stressato, è brutta questa cosa qua. È giusto, molto stressata, è brutta. La cosa da capire è quando andrà verso l'essenziale che tipo di piatti ti porterà, perché un po' di paura ce l'ho. L'altra notizia divertente che mi ha colpito è questa che viene da Glasgow in Scozia, dove all'aeroporto è bella, all'aeroporto di Glasgow è e caccia i baby proprietari dei peluche smarriti. Negli ultimi un paio di mesi addirittura ne sono stati smarriti 21 di questi pupazzetti e hanno deciso, con l'aiuto dei social, quindi di Facebook e di Instagram, di pubblicare le foto e le immagini di questi pupazzi, di modo che i proprietari, i bambini che magari sono disperati in giro per il mondo senza più il proprio peluche di riferimento, possano recuperarlo. E ci è sembrata una buona notizia, un modo per ricongiungere bimbi e pupazzi. E si può fare anche altrove, anche in altri aeroporti. Certo. Sandro da Arezzo, buongiorno, benvenuto, vai. Sandro, pronto? Tocca a te. Sì, sì. Vai, vai. Buongiorno, sì, allora per quei 3 italiani su 4 che non vanno al museo, io volevo dire soltanto questo: io sono una guida turistica, quindi sono anche coinvolto di parte. Bravo, sono bravo. Di partissima, ma si stanno perdendo un divertimento tremendo. Magari credono che i musei siano noiosi, perché sicuramente non li hanno mai visti con una buona guida. Una buona guida appassionata ti può. Momento proloco di Sandro che si sta facendo un piccolo spazio pubblicitario. Vai, vai, il vai. Concetto, però, è giusto. Perché, io personalmente ho iniziato proprio riportando i miei concittadini nei musei della loro città, cioè quelli che hanno sotto casa, chiaro? Proprio quelli sotto l'uscio, e hanno scoperto un mondo straordinario. Erano 15-20 anni che non li vedevano più, e vedere l'espressione di soddisfazione che si apre nei loro occhi è straordinaria, proprio perché scoprono, ecco, una storia che non avevano mai visto e ce l'avevano sotto casa. Io mi prendo, questa immagine, l'espressione di soddisfazione sui loro occhi. Questa è straordinario, ecco. Sì, perché ritornano come bambini. Ed è una cosa che poi succede con i turisti, ma succede con tutti. Quando uno ha la passione, insomma, si diverte proprio a fare il proprio lavoro e diventa una soddisfazione. Quindi per andate tutti al museo, ci dice Sandro, perché potete addirittura tornare bambini in qualche modo. È molto, molto giusto, molto, molto bello. Anche questo concetto che, appunto, che quando si è turisti, e invece forse bisogna un po' imparare ad essere anche turisti a casa propria, cioè se ci si comporta come quando si è in giro per il mondo, anche quando si è a casa propria, spesso si sta molto meglio. Sentiamo anche Francesco che ci chiama dalla provincia di Bari. Di Brescia, Francesco. Brescia. Certo, vai. No, beh, diciamo che magari noi qui a Brescia siamo un po' favoriti rispetto agli amici di Salerno per il clima, quindi il clima ci aiuta a rientrarci qualche volta in museo. È nuvoloso, nebbia in Valpadana e quindi via. Nebbia vai. In Valpadana. Già questa è una buona notizia, dire di essere avvantaggiati perché uno ha un clima molto più schifoso mi sembra molto bello. C'è dell'ottimismo, esatto, c'è dell'ottimismo. Esatto. Esatto, esatto. Comunque, al di là di questo, io comunque in maniera molto semplicistica, magari non essendo un esperto come la guida di prima, la butto così alla giovanile, insomma. Io ricordo i miei tempi all'universitario, scorrendo, insomma, era molto carino andare nel museo, soprattutto per gli incontri che si fanno, perché tu nel museo giustamente entri in una dimensione diversa, o vogliamo anche un po' onirica. Puoi essere, sì. Ma scusa Francesco, sei sicuro che fosse il museo dove andavi con questa dimensione a fare degli incontri? No, o ti stai... Tu quando entri, sì, in un museo di fronte a chi ti sta di fronte, non sai se è un esperto o non esperto, e quindi questo in quel momento puoi diventare tu la guida, diciamo, anche se non sei nulla, e quindi affascinare o farti affascinare. Ah, ti giocavi la carta dell'esperto, vedevi lì una ragazza con l'aria spaesata. Mi sembra esatto, una motivazione straordinaria. Comunque andate nei musei, oppure, perché oppure lì si broccola, si acchiappa. Bravo, esatto, ti deve far affascinare da quello che ti raccontano, qualsiasi cosa dicono va bene, tu la segui. Però scusa Francesco, a questo punto ce l'hai un aneddoto particolare, cioè un ricordo particolare di un qualche acchiappo tentato quantomeno, che poi è un po'... Ma diciamo che fondamentalmente con i nostri amici noi giocavamo sempre la carta del farsi, diciamo, coinvolgere, no? Cioè eravate abbonati al museo, Francesco, spiegami un attimo. Sì, diciamo che giravamo qui bene o male a Milano, soprattutto da Brescia si spostavamo a Milano, sì. C'era un bel movimento, insomma, e tutto sommato abbiamo visto che statisticamente facciamo meno fatica lì che in discoteca. Ma che meraviglia, scusa, ma no, questa è speciale questa cosa qua, Francesco, ma quali erano i musei che bazzicavate in particolare? Quello dove si cuccava? Ma guarda, soprattutto musei d'arte contemporanea, oppure dove... Pubblico giovane, avere... pubblico giovane. Sì, pubblico giovane, insomma, dove si poteva avere un approccio soprattutto di questo tipo. Certo, non vai alla galleria di antiquariato a cuccare perché dici lì magari si trova qualche ottuagenaria. Visto che c'è di moda il genere lì, potrebbe essere un'idea, no? Non so. comunque ci portiamo a casa, si fa meno fatica al museo che in discoteca. Questo che, è straordinario. Che direi che bisogna farci la maglietta. Per me hai già vinto. Ciao Francesco, grazie. Grazie. Ciao, ciao. 800 24 0024, motivatori dei musei. Fatevi avanti, ma fatevi avanti anche per parlare della moda, perché c'è la settimana della moda. Vi chiediamo se nel mondo del fashion c'è troppo spreco, come dice Greenpeace. E allora, se lavorate in un negozio di abbigliamento, questa è la vostra puntata. Chiamate 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. E allora, come detto, nella settimana della moda a Milano ci chiediamo se questo è davvero, quello del fashion, un settore sì molto positivo, ma ci sono dei ma. Si spreca troppo, capi di moda che durano troppo poco, si butta via troppa roba. Ecco, noi Chiara Campione di Greenpeace Italia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Allora, prima di rovinarci le sfilate così, però, no, vabbè, perché l'avete vista la sfilata? No, vabbè, scusate, ma le fate degli anni 90 sono eterne. Per festeggiare Versace c'erano Carla Bruni, sì, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, vabbè, una roba... No, ma bello, tu stavi dicendo donne che spreco, che... stavi dicendo che spreco sulle donne, ma questo è, no, un'altra questione, Alessio. Non era una battuta maschile, sono semplicemente straordinarie perché gli anni passano, ma donne di 50 anni bellissime, è stato un bel momento. No, però... Sarebbe bello che anche i vestiti durassero così, a lungo, no? Come la bellezza di queste donne fantastiche. Eccola qua, perché che problema abbiamo con i capi di moda, Chiara? Ma in realtà diciamo il problema che abbiamo noi di Greenpeace, insomma, come sapete, è un'organizzazione ambientalista, è che riteniamo che appunto si consumi troppo e che quando le aziende si pongono il problema dell'impatto ambientale o dell'eccessivo consumo, se lo pongono in maniera sbagliata. Quindi nell'ultimo anno i grandi brand, sia del fast fashion sia dell'alta moda, hanno cominciato a parlare di economia circolare, cioè del, sì, fatto che appunto i vestiti che sono prodotti, l'abbigliamento che viene prodotto deve essere riciclato, ma in realtà questa idea di circolarità che viene proposta dalla moda, noi la riteniamo un po' troppo immatura e viene presentata come la soluzione appunto più recente ai problemi ambientali generati da questo modello di consumo usa e getta della nostra società. Noi però pensiamo che l'applicazione di questi principi si focalizza solo ed esclusivamente sulla gestione dei rifiuti nel breve termine, no? Quindi una delle attività, delle azioni che stanno mettendo in campo per esempio tante aziende della moda è quello di riciclare per esempio la plastica per farne dei tessuti, che però viene da altri settori industriali. Ora, questa è chiaramente una azione molto lodevole, perché chiaramente riduce l'impatto dell'inquinamento, ma l'industria non si sta veramente ponendo il problema di come riciclare i rifiuti tossici. In Europa basti pensare che l'80% dei vestiti che noi dismettiamo finiscono in discarica o negli inceneritori, e quindi noi crediamo che questo non sia sufficiente, cioè pensare a un modello di circolarità che si concentri solo ed esclusivamente su recupero del rifiuto a fine vita. Ma mi scusi, ma per capire, questo vuol dire che in realtà tutti i vestiti, quando ci dicono che sono riciclati da plastiche provenienti da altri settori, e invece i vestiti che magari sono 50% cotone, 50% una fibra sintetica, in realtà non viene riciclata, ma viene eliminata come la vaschetta del supermercato, così? Non è sì, diciamo, in linea di principio sì, è chiaro che ci sono anche degli esempi di riciclo virtuosi, per esempio quando noi riciclo, qual è uno dei problemi che ha l'industria e che deve risolvere, e infatti è quello del riciclo, cioè quando si riciclano i cosiddetti tessuti misti di cui sono fatti la maggior parte dei nostri vestiti, il poliestere, la viscosa, eccetera, eccetera, ancora non esiste una tecnologia di riciclo che consenta il recupero al 100% di queste fibre. Quindi quando per esempio noi vediamo il grande brand del fast fashion che fa i cosiddetti programmi di take back, no? Il consumatore porta un sacco di vestiti e riceve un buono sconto, sì, per esempio, certo. In realtà solo una piccola percentuale di quello che viene riciclato, da ciò che noi portiamo, finisce di nuovo nel ciclo della produzione del ecco. Tessile. E dove finiscono? Perché era una delle poche certezze che avevamo, no? Quella di dire tanto poi i vestiti usati si riutilizzano, per esempio per i bambini, e questo è sperimentato, però in generale uno si toglieva un po' il senso di colpa del nuovo acquisto dicendo tanto poi rigirano, qualcuno li riutilizza, e invece evidentemente questa catena non funziona del tutto. Non funziona, certo, è una parte, diciamo, questo pezzo della catena deve esistere. Noi infatti con il rapporto che abbiamo lanciato appunto aprendo la settimana della moda di Milano, che si chiama La Moda al Bivio, in realtà abbiamo raccolto 400 esempi di aziende del settore dell'abbigliamento a livello internazionale, ci sono esempi da tutte le parti del mondo che, oltre a preoccuparsi di chiudere in qualche modo il ciclo del rifiuto tessile, si preoccupano anche di rallentarne il ciclo. Come si fa? Noi abbiamo individuato 5 categorie principali e abbiamo presentato una visione un po' più olistica, mettiamola così, della circolarità che vorremmo vedere. Quindi, ad esempio, il miglioramento del design dei prodotti per allungarne il ciclo di vita. Questa è una cosa che deve essere fatta all'inizio, non alla fine. Migliorare il design per ridurre l'impatto ambientale, quindi per esempio utilizzando solo ed esclusivamente fibre che non contengono sostanze chimiche pericolose, di modo che poi il rifiuto non diventa un rifiuto tossico. E ne abbiamo tra l'altro un esempio molto importante, mi scusi se la interrompo, Chiara, che riguarda proprio la questione del FAS, cioè di questa parte di impermeabilizzante che viene utilizzata su alcuni capi di abbigliamento e che poi purtroppo sta inquinando ferocemente il Veneto e non solo. Esatto, esattamente, quello è solo uno dei gruppi delle sostanze di sostanze chimiche pericolose di cui Greenpeace chiede l'eliminazione, perché è una sostanza chimica molto persistente, una volta rilasciata nell'ambiente vi rimane per decenni, non soltanto, ma chiaramente essendo scaricata in acqua, diciamo, risale alla nostra catena trofica e arriva a contaminare anche gli esseri umani. E poi altri sistemi che abbiamo preso in considerazione sono per esempio modelli di business alternativi, quindi proprio dei cambiamenti dei modelli di business tradizionali che sfidano per esempio il concetto di proprietà, ridefiniscono le politiche. Facciamo degli esempi precisi. Sì. Allora, intanto per esempio, per migliorare il design dei prodotti e allungarne il ciclo di vita, ci sono già tantissimi esempi che noi abbiamo raccolto di marchi di abbigliamento che forniscono per esempio delle garanzie a lungo termine, che migliorano la qualità dei prodotti affinché siano più duraturi e riparabili, oppure creano dei servizi di riparazione ad hoc per i consumatori. Abbiamo presentato alcuni di questi esempi, c'era un brand dell'outdoor che per esempio ha lanciato adesso una linea che si chiama Forever Yours, cioè per sempre tuo, perché l'obiettivo è quello di produrre dei vestiti, delle giacche che ci durino per sempre. Posso fare un esempio? Non cito la marca, però c'è un paio di scarpe che mi hanno venduto e mi hanno detto che se si staccava la tomaia mi spiegavano come si fa a riattaccarla. Esattamente. Proprio loro che hanno il materiale apposito. Cioè potrebbe diventare un modello di business, nel senso che ti fornisco l'assistenza anche per portare avanti un paio di scarpe. Per allungare appunto la vita dei prodotti. Oppure anche un po' una questione culturale, nel senso che da un lato è vero che sono i vestiti come vengono prodotti, dall'altro io ricordo che mia mamma rammendava i calzini o comunque se si stacca un bottone uno se lo riattacca, ma ci sono molte persone che invece piuttosto che riattaccare 3 bottoni, siccome la maglietta nuova costa 3,50 euro, preferiscono ricomprarsi la maglietta. Sì, che c'è un problema diciamo culturale, che però è sicuramente fomentato anche da un linguaggio di marketing, certo, diciamo, delle aziende che promuovono questo stile di consumo è senz'altro vero. È chiaro che anche i consumatori hanno un ruolo importantissimo. Noi per esempio solo qualche mese fa abbiamo lanciato un sondaggio in cui abbiamo chiesto ai cosiddetti shopaholic, cioè le persone che acquistano in maniera compulsiva perché lo fanno, e in realtà lo fanno per molto spesso per questioni di attribuiscono a loro stessi un valore inferiore e quindi preferiscono, diciamo, proiettare su un prodotto, ma il giorno dopo aver appunto acquistato magari 10 capi di abbigliamento a 4 euro l'uno non sono in realtà soddisfatti. Quindi è importante che le aziende anche cambino il loro linguaggio di marketing. Per esempio tra gli esempi che abbiamo presentato c'è questa marca di jeans tedesca che fa proprio questo, cioè utilizza un messaggio di marketing che dice: questi jeans ti possono durare 20 anni con il nostro aiuto, che ti aiuteremo a farli diventare nuovi, a tenerli bene. E quindi, diciamo, mandano il messaggio che dobbiamo tenere a ciò che, certo, acquistiamo. È anche un incitamento a non ingrassare, perché così si mantiene anche in la stessa taglia. Questa marca di jeans ha proposto la soluzione perché hanno dei jeans proprio, e qui di nuovo ritorniamo a quanto sia importante il design, che in realtà si possono stringere e allargare, quindi possiamo dimagrire e ingrassare e continuare a usare lo stesso paio di jeans. Io ricordo agli ascoltatori 800 24 00 24 che vogliamo convocarli per farci da controllori dei fatti, perché stiamo raccontando questa storia. Greenpeace ci sta aiutando a capire il lato oscuro in qualche modo della moda. E quindi, se lavorate in un negozio di abbigliamento, in una sartoria, in una fabbrica tessile o anche in una maison d'alta moda, è la vostra puntata, è il vostro momento. Chiamateci 800 24 00 24, aiutateci ad illuminare un angolino di realtà. Io le voglio chiedere anche questo, Chiara, perché a proposito del riciclo, ci sono delle inchieste che parlano del fatto che i contenitori nei quali riversiamo gli abiti usati spesso l'utilizzo non è quello che uno si può aspettare, perché solo una piccola parte, quelli gialli per intenderci, esatto, quelli gialli viene riutilizzata a favore dei più poveri, di chi ha bisogno, comunque attraverso le chiese o gli istituti assistenziali, e una parte verrebbe rivenduta poi, tra l'altro in maniera illegale, non essendo sterilizzata debitamente, eccetera eccetera, all'estero, in altri mercati, e questo spinge molti anche a non andare più col sacco dei vestiti a fare quello che sembrava un gesto invece sensato. Come ne usciamo da questa cosa qua? Ma in realtà, ecco, lì i consumatori hanno, diciamo, una grossissima responsabilità. Innanzitutto ci sono tantissime cose che si possono fare invece di mettere i nostri vestiti nel cassonetto. Do qualche idea, perché per esempio da qualche tempo lo faccio anch'io. Io un anno fa ho fatto una promessa a me stessa e da un anno non acquisto vestiti, perché li scambio con le mie amiche che hanno più o meno le stesse taglie, oppure li porto nei negozi di vestiti di seconda mano dove magari in cambio posso prendere qualcosa di nuovo, oppure ne esiste soltanto uno in Germania, ma che funziona anche in Italia, online, li prendo in leasing, cioè ricevo un pacco con 4-5 pezzi di abbigliamento ogni mese, che poi il mese successivo rimando indietro per averne di nuovi. In leasing? Ma questo è straordinario. La moda può essere creativa, può essere innovativa, questo ci aiuta anche a connetterci, diciamo, con le persone, fare network con gli amici, scambiare i vestiti. Ma come funziona il leasing? Come funziona il leasing? Sì. Perché sono molto curioso, nel senso che se uno li macchia i vestiti, e questo è il mio problema, perché io tutte le volte che poi mangio la pasta al sugo, esatto. Vabbè, le macchie si possono sempre lavare. Una delle aziende che noi presentiamo, per esempio, nel nostro rapporto, durante l'evento a Milano gli abbiamo proprio fatto questa domanda: ma poi questi vestiti, dopo che la gente li usa, arrivano in buone condizioni? E loro dicevano che anche per loro questa era una delle prime preoccupazioni quando avevano deciso di lanciare questa iniziativa, ma che in generale le persone che, diciamo, si rivolgono a questo tipo di servizio, poi i vestiti tutto sommato li tengono bene. Certo, c'è un margine, una piccola percentuale di vestiti che poi magari non potranno più essere riutilizzati e che vengono, diciamo, dismessi, arrivano a fine vita, ma da 2 anni questa azienda lavora e loro sostengono che questo margine è del 2-3% dei vestiti che si rovinano. È un'azienda italiana? È un'azienda tedesca. Ma se uno si trova bene, poi può riscattare alla fine il pantalone, come si fa con l'auto? No, perché l'idea è proprio che diciamo, i vestiti possono anche, diciamo, non essere nostri di proprietà, ma un bene che ricircola e che viene utilizzato da altri. Grazie Chiara Campione. Grazie mille. Peace. Noi, grazie a voi. Ci fermiamo qua. 800 24 00 24. Sarebbe bello se ci chiamaste proprio voi che lavorate nel settore della moda quest'oggi. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all. E allora, cari ascoltatori, questa mattina due regole d'ingaggio per voi all'800 24 00 24. Motivatori del sabato mattina. Vogliamo le vostre buone ragioni per andare a musei, a mostre, visitare musei, anche all'aperto, visto che abbiamo avuto tra le motivazioni per non andare nei musei il fatto che in Italia c'è bel tempo, ma ci sono anche mostre, non so, in mente Burri o altri, anche all'aperto. Dobbiamo convincere i 3 italiani su 4 che non vanno al museo nemmeno una volta all'anno. L'altra regola d'ingaggio è controllori dei fatti, perché vogliamo così vi vogliamo provare a darvi questa carica, questo incarico, controllori dei... Quali sono i fatti? I fatti in questo caso sono, ce l'ha enunciati poco fa Chiara Campione di Greenpeace: c'è troppo spreco nel mondo della moda. E allora, se lavorate in un negozio di abbigliamento o in una maison d'alta moda, chiamateci per raccontarci se è vero che i capi d'abbigliamento hanno cicli di vita troppo corti e si spreca tanto. 800 24 00 24. I motivatori però hanno un motivo in più per chiamare, perché si vince il biglietto per andare alla mostra di Klimt qui a Milano. Giorgio al dalla provincia di Rimini, benvenuto. Grazie. Prego. Sono Gallavotti Giorgio. Sì. Del Museo del Bottone di Sant'Arcangelo. Io scusa, io non abbiamo capito. Hai detto anche il cognome? Gallavotti Giorgio. Giorgio del Museo dei Bottoni? Del Bottone di Sant'Arcangelo di Romagna. Allora. Ma intanto è perfetto, perché racchiude i nostri due temi insieme: lo spreco nella moda e andare nei musei. Quindi il Museo dei Bottoni, ecco. Già è proprio il nostro ospite perfetto. Cos'è il Museo dei Bottoni? Allora, volevo dire che la gente non va nei musei italiani, in certi musei italiani è minore rispetto a quello dei popoli stranieri, per il semplice fatto che la maggioranza dei musei italiani non raccontano il museo, non c'è chi accoglie, non c'è chi guida, non c'è chi racconta. Noi abbiamo un piccolo museo con 13.000 bottoni, vanno dal 1600 al 4 gennaio 2017, quando Papa Francesco ha creduto opportuno di mandare i suoi bottoni dalla sua talare, perché la sua storia di Papa Francesco nel contesto di questo museo ci sta tutta, perché abbiamo conquistato il mondo, facciamo 40.000 visitatori all'anno. Sì. L'Italia però è leader nella produzione di bottoni? Però, Glielo chiedo. Però noi raccontiamo, sì, con 13.000 bottoni 13.000 storie. Bravo Giorgio, momento proloquo, abbiamo capito la storia del Museo dei Bottoni, cerchiamo in realtà buone ragioni per andare, questa è una buona ragione, se ti interessa. È una buona ragione per andare a Sant'Arcangelo di Romagna, certo. Assolutamente. Proviamo con Lorena, dalla provincia di Bologna, vai. Sì. Buongiorno a tutti. E complimenti per la trasmissione. Grazie. Io ho chiamato perché volevo portare la mia esperienza. Io da qualche anno che ho cominciato a frequentare le mostre, i musei, sì, e grazie all'aiuto di una guida, e in questo senso mi riferisco anche alla testimonianza della guida che chiamò poco fa, infatti. Questa motivatrice, diciamo così, ha creato un gruppo di persone che giorno dopo giorno si stanno appassionando alla propria città. Ma ragazzi, ma è bellissimo riuscire a sapere che la sera dopo il lavoro io esco, viaggio, mi immergo in una Bologna medievale, e faccio un viaggio fantastico, ma usciamo dai nostri divani, è bel tempo, è bello andare in giro, è bello spendere 2 ore per sognare in mezzo alle nostre cose, delle più piccole alle più grandi. Usciamo dai nostri divani, me lo segno. Ci sta facendo, cioè, una come bellissima... se il divano fosse una cosa che ti avvolge, esatto, da cui non riesci più a uscire. Ed è esattamente dopo, così. Dopo un po' tu diventi un tutt'uno con la divano, forma del divano, sì, capito? Tu ti alzi e te lo porti dietro. Lì. Benissimo, grazie. Lorena, grazie per questa bella telefonata. Adesso facciamo, elaboriamo il cervellone qua della redazione. Esatto, e mentre va il cervellone, volevo dire una cosa. Sì. C'è un bellissimo festival che si chiama Fiato ai Libri, che è a Bergamo e in provincia, intorno a Bergamo, da 12 anni, dove praticamente attori e anche non attori vanno a leggere dei libri integralmente. Io sono felicissimo stasera di essere lì insieme a Fabrizio Pagella e Luca Olivieri a leggere un libro. Sarò a Luzzana, al Castello Giovannelli, nel cortile della biblioteca, in via Castello 73, oggi alle 20:45. E leggeremo, sì, Nessuna notizia di Gurb, un libro di Edoardo Mendoza. Io ringrazio Ettore che ci scrive su Facebook che lui risuola le sue scarpe da corsa che gli durano molto più tempo. Bravo Ettore, questo è il messaggio che volevamo dare stamattina parlando di moda. Brrr, il cervellone estrae, il vittorioso di oggi è Francesco da Brescia, che al museo ci andava per acchiappare. Vale. Non poteva non vincere. Ci risentiamo domani, come si può fare, dopo il GR delle 8 fino alle 10. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo La Rucella. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini. E a chi ci ascolta in podcast.